Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dopo l'annuncio della nuova strategia nucleare degli Stati Uniti, l'Iran minaccia: romperemo i denti all'America. Domani la firma del trattato START 2. Scandalo preti pedofili, si dimette un vescovo norvegese: ho abusato di un chierichetto. Riforme: dopo l'accordo tra Bossi e Berlusconi, oggi vertice del PDL a Palazzo Grazioli. Mercato dell'auto: firmata l'intesa tra Daimler e Renault, si attendono 4 miliardi di risparmi. Una buona giornata da Simone Spezia dalla redazione. In apertura andiamo all'estero. A poche ore dalla firma dell'intesa con la Russia per la riduzione degli arsenali atomici, il cosiddetto trattato START 2, il presidente Obama ha presentato, lo sapete, ieri la nuova strategia nucleare degli Stati Uniti. Ci sono novità rispetto a quella del presidente Bush, ma resta aperta la possibilità dell'autodifesa dalle minacce nucleari rappresentate da Iran e Corea del Nord. Molto pesante la risposta iraniana arrivata questa mattina dal presidente Ahmadinejad. Dice: gli Stati Uniti avranno una risposta fragorosa e devastante. Laura Bettina ha intervistato Riccardo Alcaro, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali. Ascoltiamolo. Questa nuova review, questo nuovo riesame ridimensiona in parte l'importanza delle armi nucleari come strumento militare. Obama ha esplicitamente detto che il ruolo delle armi nucleari americane è quello di funzionare come deterrente contro altri attacchi nucleari. L'altra differenza, che forse è più importante ancora, è che Obama ha detto che gli Stati Uniti non costruiranno nuove armi nucleari. Oggi il presidente iraniano Ahmadinejad ha detto che gli Stati Uniti avranno una risposta fragorosa alla review e alla postilla che riguarda l'Iran all'interno di questa review. L'anti-americanismo tira in Iran. Obama ha in qualche modo scardinato una strategia che una parte del regime iraniano seguiva proprio a occhi chiusi sul binario tracciato, cioè quella di poter attaccare in tutti i modi gli americani, perché effettivamente dal loro punto di vista gliene davano continuamente il destro. Diciamo che l'atteggiamento di Obama, sebbene non privo di qualche ambivalenza dal punto di vista degli iraniani, è più difficile da confrontare. E c'è un altro fronte di tensione internazionale, una tensione internazionale che si sta acuendo, quella tra Turchia ed Israele. Un'escalation senza sosta. Le relazioni tra Turchia e Israele, ormai ex alleati storici, non sembrano proprio voler tornare quelle di una volta. Ad attaccare oggi è stato il premier turco Recep Tayyip Erdogan, che ha definito lo Stato di Israele la maggiore minaccia per la pace in Medio Oriente. Pronta la risposta di Gerusalemme, che ha bollato le parole del primo ministro come propaganda grossolana. L'esternazione di Erdogan arriva dopo 48 ore in cui le relazioni tra i due paesi sono tornate ai ferri corti. La causa scatenante sembra la condizione dei palestinesi sulla striscia di Gaza, motivo per cui i rapporti con lo Stato ebraico sono critici ormai dal dicembre 2008. Con il nuovo esecutivo a Gerusalemme la situazione sembra essere peggiorata. Il ministro degli esteri israeliano Lieberman non perde occasione nel rispondere al paese della mezzaluna e ieri ha paragonato Erdogan al presidente venezuelano Chavez e al leader libico Gheddafi. Marta Ottaviani, GR24, il sole 24 ore, Istanbul. E ora ci spostiamo in Francia, dove è notizia di poco fa, o almeno così è stata diffusa dalle agenzie, che c'è stata una rivolta nel carcere parigino della Santé. Chiediamo conferme e ulteriori dettagli in diretta alla capitale francese ad Igor Fiati. Igor. Sì, buongiorno da Parigi. Nel carcere della Santé, nel 14° arrondissement di Parigi, è in corso in realtà un sequestro di persona. L'ostaggio è un medico, mentre l'autore del sequestro è un detenuto del carcere ritenuto pericoloso dalle autorità. L'autore del sequestro infatti non sarebbe nuovo a tali episodi, a tali sequestri. A lanciare l'allarme è stato il ministro della giustizia francese, Michel Alliot-Marie, che ha attivato immediatamente una cellula di crisi. Così sul posto sono intervenute immediatamente le brigate di ricerca e di intervento specializzate in tali situazioni. E con questo per ora è tutto, linea Milano. Grazie dunque ad Igor Fiati, vedremo che evoluzioni ci saranno su questa vicenda. Torniamo a parlare adesso di chiesa e pedofilia, perché padre Lombardi, portavoce Vaticano, ha confermato le informazioni sull'ex vescovo norvegese di Trondheim, Monsignor Bernd Eidsvik, sul caso che ha coinvolto invece Monsignor Georg Müller, vescovo della diocesi tra il 97 e il 2009. È il primo caso di un prete cattolico pedofilo segnalato in Norvegia. Müller ha ammesso di aver abusato di un chierichetto una ventina di anni fa, quando era un semplice prete, per questo si è dimesso lo scorso anno dalla guida della diocesi appunto di Trondheim. Continuano intanto le tensioni tra il Vaticano e il mondo ebraico. Il cardinale Angelo Sodano, un decano del Sacro Collegio, ha accostato le critiche a Benedetto XVI, rivoltegli appunto per lo scandalo pedofilia, a quelle rivolte in passato a Pio XII, scatenando l'ira della comunità ebraica, già risentita dopo la predicazione di padre Raniero Cantalamessa il Venerdì Santo. Al microfono di Katia Caramelli, il rabbino Giuseppe Laras, presidente onorario dell'Assemblea Rabbinica Italiana. Una autodifesa scomposta, fuori bersaglio e poi sbagliata, una mossa disperata che nasce da una certa confusione che c'è al vertice della Chiesa, ecco. Che poi arriva questa mossa dopo la precedente di padre Raniero Cantalamessa, che già aveva suscitato polemiche. Appunto, quindi dopo queste incaute dichiarazioni di Cantalamessa, che poi sono state rettificate, puntualizzate, che proprio il cardinale Sodano riprenda lo stesso argomento fa cascare le braccia un po'. C'è molta confusione al vertice. Credo che queste dichiarazioni lasciano sottintendere che gli ebrei vogliono mobilitare l'opinione pubblica contro il Vaticano, cavalcando l'arma dello scandalo di questi ragazzi abusati, che è molto grave se è questa l'interpretazione. Dire queste cose significa alimentare istinti antisemiti e quindi accrescere anche i rischi di infiammare le persone un po' esagitate. Quindi non era questo l'argomento da riprendere, sottolineo riprendere perché era già stato usato incautamente e poi corretto. Non si capisce con quale criterio vengano adoperate certe espressioni. Ma nel mondo cattolico naturalmente si parla anche di altro. Andiamo a Sant'Onofrio, il paesino calabrese nel quale una processione è diventato un caso di lotta all'andrangheta. La storia dell'affrontata rimbalza su Facebook e nelle dichiarazioni di molti politici. Colpisce la vicenda del paesino calabrese di Sant'Onofrio, dove anche una processione pasquale, l'affrontata appunto, può sporcarsi di 'ndrangheta, diventare dimostrazione di forza da parte delle 'ndrine che qui comandano. Prima l'intimidazione al priore, che è escluso dalla cerimonia le persone più chiacchierate, poi la decisione di sospendere domenica scorsa per motivi di sicurezza la celebrazione. Oggi nel pomeriggio la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, che dovrebbe decidere se fare o meno l'affrontata nei prossimi giorni. Un braccio di ferro insomma ripreso dalle pagine di Facebook, dove il gruppo Sant'Onofrio, paese dendranghetizzato, ha 146 contatti, e sentito dal ministro della giustizia Alfano, che ha chiamato il vescovo di Mileto per ringraziarlo per la presa di posizione forte contro la criminalità. Paola Nania, GR24, Sulle 24 Ore, Catanzaro. Restiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo nel torinese per una brutta storia che riguarda l'ospedale di Chivasso. Un pronto soccorso in crisi da affollamento con 21 pazienti provenienti dai reparti di medicina e neurologia parcheggiati nei corridoi, tra cui anche una donna da poco deceduta. E quanto hanno trovato all'ospedale di Chivasso i carabinieri del NAS di Torino nel corso di un blitz al Dipartimento di Emergenza e Accettazione della grande struttura sanitaria in provincia di Torino. I controlli dei militari sono scattati dopo una serie di lamentele che negli ultimi mesi segnalavano gravi carenze gestionali. Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di difficile vivibilità, con gravi anomalie rispetto a quanto previsto dalle norme sulla degenza e l'assistenza ai pazienti. Totale assenza di privacy per i malati, pazienti uno accanto all'altro e con differenti patologie, in ambienti non idonei. Secondo quanto verificato dai carabinieri, la sala d'attesa del pronto soccorso verrebbe utilizzata di fatto come principale passaggio per l'accesso all'ospedale da parte di pazienti e visitatori. Al momento le carenze scoperte sono di tipo amministrativo, anche se non si esclude possibili ipotesi che possano assumere anche rilevanza penale. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino. In chiusura di questa prima parte parliamo di ciclismo e dell'ultimo caso di doping che ha toccato la Lampre, la squadra di Damiano Cunego e dell'ex campione del mondo Dario Ballan. Nell'indagine della procura di Mantova vede coinvolte 34 persone tra corridori, dirigenti, tecnici, medici. In particolare è indagato Guido Negrelli, titolare di una farmacia di Marina Mantovana dove i medici della Lampre acquistavano medicinali per la squadra. L'accusa è di violazione dell'articolo 9, uso e detenzione di sostanze proibite dalla legge antidoping. Dario Ceccarelli ha intervistato il team manager della Lampre, Beppe Saronni. I tecnici, l'equipe medica e i ragazzi che sono da questo preparatore atletico mi hanno confermato e mi hanno detto che loro hanno sempre svolto le loro attività correttamente. Io l'unica cosa che posso ribadire è questo. Quindi da questo punto di vista ti senti tranquillo, sereno? Io sono tranquillo perché mi fido dei miei collaboratori, delle persone che lavorano con me e poi dei ragazzi che sono dei professionisti e che, attenzione, possono farsi seguire da chi vogliono, cioè sono dei liberi professionisti, però quello che mi dicono io mi fido, e in un momento come questo del ciclismo non posso pensare ad altro. Certo, non sono sereno perché non si lavora serenamente, non si lavora con tranquillità, è diventato praticamente impossibile lavorare in questo mondo. Quindi questa è la verità, per vari motivi, colpa anche del mondo del ciclismo certamente, però è impossibile oramai lavorare in questo mondo qua. Quindi è ovvio che anch'io una riflessione la sto facendo, e la sto facendo seriamente, quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Cioè tu dici è impossibile lavorare perché dice c'è una tale rete di controlli, di situazioni, di dire che alla fine dice lavorare è diventato un problema. E questo ma lo dicevi prima, c'è un atteggiamento, come posso dire, una sensazione di essere guardati di pregiudizio, chiamiamolo come vuoi. E quindi periodicamente poi escono alcune cose, alcune situazioni che, per l'amor di Dio, ci sono magari in alcune cose dei fondamenti, in altre no, però sta di fatto che se qualcuno ha sbagliato pagherà, ci mancherebbe altro, non sono io a doverlo dire, ma chi non ha sbagliato ha pagato comunque, questa è la verità, no? Certo. Però è proprio l'ultima cosa che ti dico, in passato purtroppo le cronache alla fine hanno dato più torto a molti anche campioni che alla fine sono stati trovati con le mani nel sacco. Bravo, ma certo, io credo che noi stiamo pagando tutte queste situazioni, la credibilità è quella che è, quindi tutti possono sparare nel mucchio e hanno ragione. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle tensioni internazionali tra Iran e Stati Uniti e di quelle tra Turchia ed Israele. Abbiamo parlato dei casi di pedofilia nella Chiesa, abbiamo parlato di doping nel ciclismo. Adesso ci occupiamo di politica. Iniziando naturalmente dagli esiti del vertice di ieri tra Berlusconi e Bossi e dalle prospettive degli incontri di oggi a Palazzo Grazioli. In diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Si riforme, si riparte dopo il vertice Berlusconi-Bossi ad Arcore, si accelera con la cabina di regia, a quanto pare in mano alla Lega, il Carroccio preparerà i testi che verranno discussi dagli alleati. Al centro il semipresidenzialismo alla francese, il Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari. Ma ai Fignani non piace lo strapotere del Carroccio, Ignazio La Russa avverte, è pacifico che la regia delle riforme sia in mano a Berlusconi, non si è parlato della Lega. C'è poi chi parla di scambio nella coalizione di governo, in sostanza Berlusconi si occuperebbe di giustizia mentre Bossi di riforme. Il Ministero delle Politiche Agricole dovrebbe andare a Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto. Ma nella Lega si nega l'accordo di scambio, così il neo governatore del Piemonte Roberto Cota. Sentiamo. Non esistono scambio, federalismo, giustizia. Gli scambi li inventate voi. Se diciamo la nascita del federalismo possiamo rendere come la nascita di un bambino, c'è bisogno qualcuno che spinga e qualcuno che lo tiri fuori, e si spinge da Roma e si tira fuori evidentemente dalle regioni. Dall'opposizione invece il monito a fare le riforme in Parlamento, così le vuole il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, d'accordo anche Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. Gli accordi fatti al di fuori del Parlamento sono lottizzazione e spartizione del bottino. Per noi sono come non esistenti. In Parlamento vogliamo che si discute di riforme, ma soprattutto di riforme che interessano i cittadini, partendo dall'occupazione e dal lavoro, dalla difesa del territorio e dell'ambiente. Di questo parleremo sul piano delle riforme e non certo sugli interessi lottizzatori di questa casta, anzi di questa cricca. E per cercare l'approvazione di tutto il PDL, Berlusconi ha convocato per oggi pomeriggio un vertice a Palazzo Grazioli a Roma con i coordinatori del partito. Sarà presente anche Ignazio La Russa. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, e tra le riforme delle quali si discute c'è la riduzione dei parlamentari. A questo era dedicato oggi il nostro sondaggio. Da Berlusconi a Bersani, da Fini a Maroni lo chiedono un po' tutti. Tagliamo i parlamentari, quei 945 parlamentari più i senatori a vita sono davvero troppi. Discorsi sentiti e risentiti da 20 anni o giù di lì, eppure i numeri non calano. Vi chiedevamo allora oggi, ma secondo voi stavolta i politici ce la faranno a mantenere la promessa? Vi siete divisi, ma il 53% di voi si è mostrato ottimista. L'ex senatore Massimo Villone, che ai costi della politica ha dedicato anche un libro scritto col collega Cesare Salvi, mette però in guardia su un aspetto che rischia di apparire demagogico. Se si guarda al problema dei costi della politica, allora veramente non basta pensare ai parlamentari, perché è una quota assolutamente minoritaria della spesa, persino per quanto riguarda Camera e Senato. I veri capitoli di spesa sono non tanto i parlamentari quanto il personale di immobili e servizi. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo a parlare degli effetti delle regionali, questa volta all'interno del Partito Democratico. Oggi un'intervista del sindaco di Torino Sergio Chiamparino fa discutere. Dice Chiamparino che serve un PD federalista, un partito che abbia una sua unità nazionale data dell'insieme di partiti fortemente radicati sul territorio. Una Lega di sinistra, dice Chiamparino, che però si muova su binari di valori e ideali opposti a quelli dei leghisti. Su questo tema abbiamo raggiunto poco fa un altro sindaco del nord del Partito Democratico, Flavio Zannonato. Sentiamo. Io penso che i partiti siano di per sé sempre qualcosa di nazionale, non possono essere partiti locali, anzi ce ne può essere uno, ma c'è, è della Lega. E se vogliamo essere in qualche modo una risposta alternativa alla Lega, in grado di soddisfare i bisogni della nostra gente, dobbiamo mantenere anche questa capacità di essere forti a Roma. Faccio un esempio calcistico: se non riesco a vincere il campionato nazionale in Serie A, non posso fare un campionato regionale e dire vinco quello, perché non ho più vinto il campionato nazionale. Quindi quest'idea, quest'ipotesi di una Lega della sinistra non la convince, mi sembra di capire. Mi convince che alcuni temi che sono cari alla Lega e che la Lega ha intercettato in modo molto chiaro abbiano una risposta anche da noi, una risposta molto diversa da quella leghista. Le domande sono le stesse e la Lega dà delle risposte, normalmente dà la risposta di tornare indietro nel tempo. Noi dobbiamo invece avere le risposte che guardano a tutte le componenti delle difficoltà che abbiamo oggi e risolvono il problema con una prospettiva realistica, non con una prospettiva irrealistica che è quella di tornare indietro quando si stava bene. E questo era Flavio Zannonato, sindaco di Padova. E dopo le elezioni la rivolta del nord in Lombardia parte dai sindaci che domani saranno in piazza a Milano. Non ci sarà il primo cittadino del capoluogo lombardo Letizia Moratti, ma oltre 300 sindaci lombardi a restituire simbolicamente al prefetto la loro fascia tricolore. Chiedono più attenzione al nord, più fondi per le amministrazioni comunali virtuose. A guidarli il sindaco leghista di Varese, Attilio Fontana, presidente di ANCI Lombardia, che al microfono di Anna Migliorati rilancia sul federalismo fiscale. Ci saranno rappresentanti di ogni tipo di dimensione, di ogni tipo di colore politico, ecco. È indubbio però che molti dei sindaci che domani saranno in piazza sono di centrodestra, e in un nord, in particolare in una Lombardia in mano saldamente al centrodestra, con un governo nazionale di centrodestra, colpisce questa manifestazione, o non ci trova nulla di strano? ritengo che questa manifestazione non sia una manifestazione contro il governo, ma sia una manifestazione in difesa del nostro territorio. L'esempio è forse banale, ma credo significativo. Se ci tagliano di 20 milioni il fondo sociale per la Lombardia e poi vediamo che a Roma vanno 80 milioni così a babbo morto, nell'ultimo BCM con cui hanno distribuito i soldi dello scudo fiscale, c'è qualcosa che stride, che non va bene, che ci fa un po' ribollire sangue. Un messaggio... Eppure è il governo che distribuisce in questi soldi, certo. E quindi voi contate. Com'è possibile che la partita debba arrivare in piazza e non nelle sedi in cui si decide? Perché io credo che purtroppo un certo tipo di mentalità, un certo tipo di modo di fare politica assistenzialista, centralista, meridionalista c'è ancora in una parte della rappresentanza governativa. Quanto contate sul federalismo fiscale? Tutto, assolutamente, giunti a questo punto, tutto. Dalla politica ci spostiamo all'economia, iniziando dai dati diffusi oggi dall'OCSE. L'OCSE stima che l'Italia torna a crescere nel primo semestre, ma poi perde slancio. Nel primo trimestre stima un PIL a più 1,2 annualizzato, nel secondo un più 0,5. Bene anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna in forte ripresa, fatto che potrebbe favorire Gordon Brown alle prossime elezioni. Più calda invece la Germania, che nel primo trimestre metterà a segno un meno 0,4 annualizzato e poi passare a un più 2,8. Insomma, Piercarlo Padoan, capo economista dell'OCSE, lancia un segnale di moderato ottimismo. La ripresa globale è in corso, il peggio è passato, l'inflazione non è un problema. Ma ciò che preoccupa è l'occupazione e il debito pubblico, che va ridotto a partire dal 2011. La Grecia è un problema di mancanza di disciplina fiscale, mentre la Spagna di sostenibilità economica. Quanto all'Italia, deve ridurre il debito e rivitalizzare la crescita. Problemi, ahimè, precedenti allo scoppio della crisi e che necessitano riforme strutturali, troppo a lungo rinviate. Vittorio Darolde, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo a Bruxelles perché è là che è stato annunciato l'accordo tra Daimler e Renault. Una cooperazione strategica e non un'alleanza. Così Carlos Ghosn, numero uno di Renault e Nissan, ha definito l'intesa firmata oggi con la Mercedes-Benz. Una cooperazione su molti progetti, dalle auto piccole ai motori ai veicoli commerciali. Uno scambio di partecipazione del 3,1%, quindi largamente simbolico e non destinato a crescere. Sia Renault che Daimler, la casa madre di Mercedes, hanno chiuso in rosso il 2009 e cercano di ridurre i costi, sia quelli di investimento, dividendoli per due con i partner, che quelli di produzione, saturando impianti che attualmente girano a basso regime. Per Daimler l'accordo è forse ancora più importante che per gli altri due soci. Avendo perso miliardi con la Smart e con le piccole a marchio Mercedes, il gruppo tedesco doveva assolutamente trovare un modo per poter essere presente a costi competitivi nei segmenti piccoli. Le nuove norme europee sulle emissioni sono infatti ormai alle porte e Daimler dovrà sfornare una proporzione sempre maggiore di veicoli a basso consumo. In questo senso va anche alla cooperazione nei motori elettrici e forse negli ibridi. Alla domanda se comprerà le batterie Renault per le proprie auto, Zecce ha risposto ieri scherzando. Non è detto, forse ne potremmo produrre di migliori noi. Andrea Malan, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Si terranno il 15 aprile prossimo gli stati generali delle professioni convocati dal ministro della giustizia Alfano. Tra i temi sul tavolo, i minimi tariffari, la cui abolizione secondo alcuni avrebbe penalizzato i giovani e tutelato i più forti. Sono di questa opinione lo stesso guardasigilli e rappresentanti di vari ordini di categoria. Per altri invece un falso problema. Cristiano Cominotto, fondatore di Alta Assistenza Legale per Tutti, il network di studi legali su strada come negozi, nato proprio dopo il decreto Bersani del 2007, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Penso che il problema delle tariffe minime sia un falso problema, nel senso che non credo che i clienti si siano mai lamentati dell'applicazione delle tariffe minime. In realtà le tariffe minime degli avvocati sono già di per se stesse molto basse. Io credo che bisognerebbe guardare all'estero, a livello europeo, e decidere a livello europeo una legge. Credo che il modo in cui si sta affrontando oggi il problema sia molto limitativo e non risolve i veri problemi in questo momento dell'avvocatura e anche degli utenti che si rivolgono all'avvocato. Ma secondo lei l'abolizione ha accelerato l'ingresso nella professione o è stata ininfluente? Francamente è stato ininfluente, giusto per dare un'idea, qualche giorno fa parlavo con un avvocato amministrativista il quale mi diceva che per partecipare oggi alla giudicazione di appalti da parte dello Stato, gli avvocati devono presentare delle tariffe che sono inferiori ai minimi tariffari, per cui da una parte lo Stato imporrebbe dei minimi tariffari, dall'altra sostanzialmente obbligherebbe gli avvocati ad andare al di sotto dei minimi tariffari quando fanno consulenza allo Stato. In chiusura la Champions League, dopo i successi di ieri è già conto alla rovescia per Inter Barcellona, prima semifinale di Champions con un protagonista annunciato e atteso. Poker d'asso, e non stupisca che anche il linguaggio comune cambi quando gli occhi faticano a credere a ciò che vedono. E allora guardare Lionel Messi travolgere l'Arsenal con una quaterna delle meraviglie viene davvero da pensare che avere in squadra uno così non vale. Come quando da bambini la conta a centrocampo assicurava la tua squadretta il più bravo del quartiere e tu già gongolavi all'idea che la partita era vinta ancor prima di giocare. Tanto non ne sarebbero bastati 11 bravini a far pari con quello là. Sinistro potente, destro astuto sotto misura, pallonetto morbido in corsa, in 21 minuti nel primo tempo. Poi a chiudere, dribbling in sequenza e sinistro tra le gambe del portiere. Poker d'asso, appunto, e giù paragoni con l'altro argentino, quel Diego Maradona che sarà suo CT ai mondiali in Sudafrica. E dire che Messi, 21 anni, da bambino ha rischiato di non giocare a calcio per i problemi di crescita, superati solo con potenti cure ormonali. Storia passata ormai, se non fosse per i soli 169 centimetri d'altezza che ne sono l'eredità. Per questo lo chiamano la pulce. Sarà, ma già sembra, il più grande di tutti. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.